Qualche settimana fa mi ha scritto Sara che aveva appena visto il video in cui parlo della nostra paura più grande. Mi ha scritto così: "Ciao Dom, volevo ringraziarti per il video sulle nostre paure. Oggi devo partecipare come relatrice ad una conferenza e sto malissimo per paura di fare figuracce e non essere allo stesso livello degli altri professionisti. E temo che queste sensazioni mi blocchino. Ho la testa invasa da pensieri negativi, ma le tue parole mi hanno dato una spinta." Lo so, ogni volta che dobbiamo parlare davanti a un pubblico, piccolo o grande che sia, c'è sempre quell'ansia, quella paura che ci blocca, quella stretta allo stomaco che ci impedisce di andare avanti serenamente. Una volta a 16 anni mi hanno praticamente costretto a leggere in chiesa perché non c'era nessuno che volesse farlo. Sono andato di corsa verso Lambone, ho letto a 100 all'ora, ho sudato, ero agitatissimo, sono scappato via di corsa, tutto imbarazzato. Probabilmente la gente non ha capito nulla di quello che ho detto. Avevo proprio anch'io in quel momento quest'ansia terribile, questa paura di mostrarmi davanti agli altri. Forse anche tu hai provato sensazioni analoghe quella volta che ti sei dovuta presentare a quel colloquio, che hai dovuto affrontare quella situazione difficile, che hai dovuto incontrare quella persona per dirgli quelle cose che ti stavano proprio sul cuore. Come la chiameresti questa sensazione, questa stretta allo stomaco che si prova in quei momenti? Disagio? Ansia? Paura? Se in quel momento abbiamo a fianco a noi una persona amica, facilmente ci dirà frasi del tipo: "Calmati, dai, non agitarti, non è nulla, ce la puoi fare." Come quando siamo arrabbiati e uno magari ci dice: "Non arrabbiarti" e ci arrabbiamo ancora di più. "Non agitarti" e ci agitiamo ancora di più. L'ansia, come la paura, sono emozioni ad alta attivazione corporea. Il battito accelera, la sudorazione aumenta, diventiamo ipervigili e sensibili a qualsiasi stimolo intorno a noi. Ridurre le caratteristiche fisiologiche che accompagnano l'ansia con la sola forza di volontà è praticamente impossibile. Anzi, a volte la resistenza aumenta ancora di più queste caratteristiche legate all'ansia e alla paura. Hai mai pensato però che potresti vedere tutto questo da un'altra angolazione? Quella paura che senti come nemica non potrebbe invece essere, invece che un ostacolo, un'alleata? È un'emozione negativa che sarebbe meglio non avere proprio? Oppure si tratta di un'attivazione fisiologica amica che prepara la nostra mente, il nostro corpo a reagire al meglio a quello che stiamo per vivere? Pensaci, oltre all'ansia c'è un'altra emozione che ha un'attivazione fisiologica corporale molto grande: l'eccitazione. E allora non sarà possibile, invece di voler eliminare quest'ansia, questa paura, provare a dare ad essa un significato diverso, provare ad interpretarla invece che come segno di paura, come segno di eccitazione? Stai per affrontare qualcosa di importante, stai per fare un discorso in pubblico, stai per presentare qualcosa, stai per vivere una situazione nuova. Quella sensazione è proprio quello di cui hai bisogno per affrontare tutto questo. Il battito accelera, fluisce più sangue al cervello, tutte le fibre del tuo essere sono pronte per affrontare al meglio quello che sta per accadere. Sono prete da più di 20 anni, ma ogni volta che devo parlare in pubblico, che devo fare un'omelia o affrontare un'altra situazione, è sempre molto forte l'emozione. Certo, non come quella volta quando a 16 anni lessi in chiesa per la prima volta. Ormai sono abituato a pensare a quell'emozione come ad un'amica che mi suggerisce all'orecchio che sono pronto, che sto facendo qualcosa di importante, che devo tirare fuori il meglio di me. Pensa al contrario se non avessimo nessuna ansia, nessuna agitazione, nessuna emozione, e non riusciremmo a fare nel modo migliore quello che dobbiamo fare. Certo, mi dirai, un conto è una paura amica, un conto è una paura che paralizza. E allora, come in tutte le cose, credo che il tempo e la pratica ci permetteranno di addomesticare anche la nostra sensazione, la nostra risposta a questa emozione molto forte che ci sta venendo incontro, e sempre di più riusciremo a vederla come una preziosa alleata nel nostro compito. Quindi la prossima volta che sentirai salire dentro di te quest'ansia per questa cosa che devi fare, che ti preoccupa così tanto, fai così: prenditi 5-10 minuti di tranquillità, scegliti un posto tranquillo, rimani in silenzio, chiudi gli occhi, respira lentamente, cerca di sentire questa emozione che sta salendo dentro di te, non per scacciarla, ma per abituarti ad essa, per percepirla come qualcosa di amico, qualcosa che ti aiuterà. Ringrazia per questa sensazione, stringile la mano, dille che la stavi aspettando, chiedile che ti rimanga accanto senza essere troppo invadente e che ti aiuti a tirare fuori il meglio di te. E poi vai, alza le spalle, distendi il tuo corpo, sorridi e comunica serenamente tutta la luce che è in te. Scrivi nei commenti quali sensazioni provi in situazioni analoghe. E se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo con i tuoi amici. E iscriviti al canale, mi raccomando.